Tornando dall'operà, avevo aggiunto per l'indomani, a quelle che da alcuni giorni speravo di ritrovare, l'immagine di Madame de Guermantes, svettante, con la sua alta acconciatura di capelli biondi e leggeri, con la promessa di tenerezza racchiusa nel sorriso che m'aveva rivolto dal palco della cugina. Avrei seguito la strada percorsa, secondo quanto risultava Françoise, dalla duchessa, cercando tuttavia, per ritrovare due fanciulle nelle quali m'ero imbattuto 2 giorni prima, di non perdere l'ora dell'uscita da una scuola o da un corso di catechismo. Ma a tratti, nell'attesa, rivedevo il sorriso scintillante di Madame de Guermantes e ne risentivo la dolcezza. E senza rendermi ben conto di ciò che facevo, provavo a situarlo, così come una donna guarda che effetto farebbero su un vestito certi bottoni di brillanti che le hanno regalato, accanto alle idee romanzesche che coltivavo da tempo e che la freddezza di Albertine, la partenza prematura di Giselle e prima ancora la voluta e troppo prolungata separazione da Gilbert avevano liberate. L'idea, per esempio, d'essere amato da una donna, d'avere una vita in comune con lei. Accostavo poi l'immagine dell'una o dell'altra fanciulla a tali idee, cui, subito dopo, cercavo d'adattare il ricordo della duchessa. In confronto ad esse, il ricordo di Madame de Guermantes all'opera era ben poca cosa, una piccola stella vicino alla lunga coda della sua cometa fiammeggiante. Inoltre le conoscevo benissimo, quelle idee, già molto tempo prima di conoscere Madame de Guermantes. Il ricordo di lei, invece, lo possedevo in modo imperfetto, a tratti mi sfuggiva. Durante le ore in cui, dopo aver ondeggiato dentro di me, al pari delle altre immagini di belle donne, esso giunse gradatamente a un'associazione unica e definitiva che escludeva ogni altra immagine femminile, con le mie idee romanzesche che gli erano tanto anteriori, allora, durante quelle poche ore in cui meglio lo recuperavo, avrei dovuto sforzarmi di coglierne esattamente la natura. Ma in quel momento ignoravo l'importanza che avrebbe assunto per me. Era soltanto dolce come poteva esserlo un primo incontro dentro me stesso con Madame de Guermantes. Era il primo schizzo, l'unico autentico, l'unico fatto dal vero, l'unico che fosse realmente Madame de Guermantes. Durante le poche ore in cui conobbi la felicità di possederlo senza prestargli troppa attenzione, doveva pur essere incantevole quel ricordo se era sempre nella sua direzione, ancora liberamente, fino allora, senza fretta, senza fatica, senza nessuna coercizione o ansietà, che si orientavano le mie idee d'amore. In seguito, man mano che queste lo fissavano in forma più definitiva, ne acquistò maggior forza, ma diventò di per sé più vago. Presto non mi riuscì più di ritrovarlo, e senza dubbio, nelle mie fantasticherie, subiva una deformazione totale, giacché ogni volta che incontravo Madame de Guermantes dovevo constatare uno scarto, d'altronde sempre diverso, fra ciò che vedevo e ciò che avevo immaginato. Ogni giorno, adesso, nel momento in cui Madame de Guermantes appariva in fondo alla via, rivedevo sì la sua alta figura, quel viso dallo sguardo chiaro sotto una capigliatura leggera, tutte cose in ragione delle quali io mi trovavo lì. Ma pochi secondi più tardi, quando, dopo aver girato lo sguardo in un'altra direzione, per non avere l'aria di attendere l'incontro che ero venuto a cercare, arrivando nella via alla stessa altezza della duchessa, alzavo verso di lei gli occhi, quel che vedevo erano delle macchie rosse, di cui ignoravo se fossero dovute all'aria aperta o alla cuperose, in un viso imbronciato che rispondeva con un cenno assai brusco, ben lontano dall'amabilità della sera di Phèdre, al saluto che io le rivolgevo quotidianamente simulando sorpresa e che lei non mostrava di gradire. Tuttavia, trascorsi alcuni giorni, durante i quali il ricordo delle due fanciulle lottò con alterna fortuna per il dominio delle mie idee amorose contro quello di Madame de Guermantes, fu quest'ultimo che alla fine si riformò più spesso come spontaneamente, mentre i suoi concorrenti si eliminavano fra loro. Fu sul suo versante che infine mi trovai, ancora volontariamente, tutto sommato, e come per scelta e piacere, ad aver trasferito ogni mio pensiero d'amore. Non mi ritornarono più in mente le ragazzine del catechismo né una certa lattaia. Eppure non avevo più nessuna speranza di ritrovare nella via quel che ero venuto a cercarvi, né la tenerezza promessa a teatro da un sorriso, né la figura slanciata e il viso luminoso sotto la capigliatura bionda, che erano tali soltanto da lontano. Non avrei neppure saputo dire, adesso, come fosse Madame de Guermantes, né da che cosa la riconoscessi, giacché ogni giorno, nell'insieme della sua persona, il suo volto era un altro, come il vestito e il cappello. Perché quel dato giorno, vedendo avanzare frontalmente verso di me, sotto un cappellino mauve, un volto dolce e liscio, le cui attrattive erano simmetricamente distribuite attorno a due occhi azzurri e nel quale la linea del naso era come riassorbita, apprendevo con gioiosa commozione che non sarei tornato a casa senza aver visto Madame de Guermantes? Perché provavo lo stesso turbamento, affettavo la stessa indifferenza, distoglievo lo sguardo con la stessa aria distratta del giorno precedente, vedendo apparire di profilo in una traversa, sotto una piccola tocca azzurro mare, un naso a becco d'uccello connesso con una guancia rossa intagliata da un occhio penetrante come in una divinità egizia? Una volta non fu semplicemente una donna dal profilo d'uccello ciò che vidi, ma un vero e proprio uccello, poiché il mantello e anche la toque di Madame de Guermantes erano di pelliccia e non lasciavano trapelare alcun lembo di stoffa, la duchessa sembrava dotata, come certi rapaci il cui piumaggio è così spesso, compatto, morbido e fulvo da far pensare a del pelo, di una sua pelliccia naturale, in mezzo alla quale la piccola testa esibiva il suo ricurvo naso d'uccello e i suoi occhi a fior di testa azzurri e penetranti. Un giorno avevo passeggiato in lungo e in largo nella strada, per ore, senza scorgere Madame de Guermantes, quando, tutto a un tratto, in fondo a una latteria nascosta fra due palazzi di quel quartiere, al tempo stesso aristocratico e popolare, vidi profilarsi il viso nuovo e confuso di una signora elegante che stava facendosi mostrare dei petit suisse. E prima d'avere il tempo di riconoscerla, fui colpito dallo sguardo della duchessa come da un lampo che m'avesse raggiunto più velocemente del resto dell'immagine. Un'altra volta, non avendola incontrata e sentendo suonare mezzogiorno, riflettevo che non valeva la pena di prolungare l'attesa e riprendevo mestamente la via di casa. Se non che, assorto nella mia delusione, guardando senza vederla una carrozza che s'allontanava, capivo di colpo che il cenno fatto col capo da una signora attraverso lo sportello era destinato a me e che quella signora, i cui tratti pallidi e sfatti, o invece tesi e vivi, componevano sotto un cappellino tondo all'ombra di una svettante aigrette il volto di un'estranea che m'era parsa di non riconoscere, era Madame de Guermantes, dalla quale m'ero lasciato salutare senza nemmeno risponderle. E altre volte ancora la trovavo, rincasando, all'angolo della guardiola, dove l'odioso portinaio, di cui detestavo le occhiate indagatrici, le stava facendo grandi riverenze e anche di certo qualche rapporto. Tutto il personale de Guermantes, infatti, dissimulato dietro le tende delle finestre, sbirciava tremando quel dialogo che non poteva udire e in seguito al quale la duchessa non avrebbe mancato di sospendere la libera uscita a questo o quel domestico denunciato dallo spione. Tutte le successive apparizioni dei diversi volti offerti da Madame de Guermantes, volti che occupavano un settore relativo e variabile, a volte angusto, a volte ampio, nel complesso del suo abbigliamento, avevano impedito al mio amore di fissarsi su questa o quella delle mutevoli porzioni di carne e di stoffa che prendevano, a secondo dei giorni, il posto delle altre e che la duchessa poteva modificare e rinnovare quasi completamente senza alterare la mia emozione, giacché attraverso ogni metamorfosi Attraverso la nuova mantellina o la guancia mai vista prima, io sentivo che era sempre, comunque, Madame de Guermantes. Oggetto del mio amore era la persona invisibile che metteva in moto tutto questo. Lei mi faceva soffrire con la sua ostilità, lei mi sconvolgeva con le sue apparizioni, sua era la vita che avrei voluto captare, suoi gli amici che avrei voluto mettere in fuga. Poteva benissimo, lei, inalberare una piuma azzurra o esibire un colorito di fuoco. Per me, le sue azioni non perdevano nulla della loro importanza. Se non mi fossi accorto da solo che Madame de Guermantes era esasperata di dovermi incontrare ogni giorno, l'avrei appreso indirettamente dalla maschera di freddezza, di riprovazione, di pietà cui si riduceva il viso di Françoise quando mi aiutava a prepararmi per quelle sortite mattutine. Non appena le chiedevo i miei indumenti, nei tratti chiusi e avviliti del suo volto, sentivo spirare un vento contrario. Non cercavo nemmeno di conquistare la sua confidenza. Capivo che non ci sarei riuscito. Per sapere immediatamente tutto ciò che disgradevole potesse capitarci, a miei genitori e a me, Françoise possedeva un potere la cui natura mi è sempre rimasta oscura. Forse non aveva niente di soprannaturale e si sarebbe potuto spiegarlo con certi specifici mezzi di informazione. È così che talune popolazioni selvagge ricevono una notizia parecchi giorni prima che la posta l'abbia comunicata alla colonia europea, essendo stata loro trasmessa in realtà non per telepatia, ma grazie a falò accesi di collina in collina. Analogamente, nel caso specifico delle mie passeggiate, può darsi che i domestici di Madame de Guermantes avessero sentito la loro padrona lamentare il tedio di trovarmi inesorabilmente sulla sua strada e avessero riferito tali discorsi a Françoise. Certo, i miei genitori avrebbero potuto adibire al mio servizio qualche altro domestico, ma io non ci avrei guadagnato. In un certo senso, Françoise era la meno cameriera di tutti. Nella sua sensibilità, nel suo modo d'essere buona e pietosa, rigida e altera, acuta e limitata, d'avere la pelle bianca e le mani rosse, Françoise era una tipica signorina di paese i cui genitori avevano del loro, ma finiti in miseria, erano stati costretti a mandarla a servizio. La sua presenza in casa nostra voleva dire l'aria della campagna e la vita sociale di una fattoria di 50 anni fa, trasportate fino a noi grazie a una sorta di viaggio alla rovescia in cui fosse la villeggiatura a venire incontro al viaggiatore. Il nostro appartamento parigino era decorato, come la vetrina di un museo regionale, dai curiosi manufatti che le contadine confezionano e guarniscono ancora in certe province, dalle parole di Françoise, che si ispiravano a un sentimento tradizionale e locale e obbedivano a regole ancestrali. E lei era capace di usarle per riprodurre, come con fili colorati, i ciliegi e gli uccelli della sua infanzia, il letto dove era morta sua madre e che lei vedeva ancora. Malgrado tutto ciò, da quando era venuta a servizio da noi a Parigi, aveva assunto, e chi non l'avrebbe fatto e a maggior ragione al suo posto, le idee, la tradizione interpretativa dei domestici degli altri piani, rivalendosi del rispetto che era costretta a tributarci col ripeterci le volgarità che la cuoca del quarto diceva alle spalle della sua padrona e con tanta soddisfazione da cameriera che, per la prima volta nella nostra vita, provando una sorta di solidarietà con la detestabile inquilina di quel piano, cominciavamo a dirci che forse, dopo tutto, eravamo dei padroni. Questa alterazione del carattere di Françoise era probabilmente un fatto inevitabile. Certe esistenze sono a tal punto anomale che finiscono fatalmente con l'ingenerare certe tare. Ad esempio, la vita che il re conduceva a Versailles fra i suoi cortigiani, non meno strana di quella di un faraone ed un doge, e più ancora la vita degli stessi cortigiani. La vita dei domestici è sicuramente di una stranezza ancora più mostruosa, tale che soltanto l'abitudine può farcene velo. Ma quand'anche avessi licenziato Françoise, sarei stato condannato, e in dettagli persino più specifici, ad avere sempre lo stesso domestico. Diversi altri, in effetti, si avvicendarono più tardi al mio servizio, già provvisti dei difetti comuni a tutta la categoria. Non per questo erano preservati dal subire in casa mia una rapida trasformazione. Poiché le leggi dell'attacco determinano quelle della difesa, per non farsi scalfire dalle asperità del mio carattere, praticavano tutti nella superficie del loro, nel punto corrispondente, un'identica rientranza. E in compenso, approfittavano delle mie lacune per insinuarvi le loro sporgenze. Io non le conoscevo, quelle lacune, non più delle prominenze cui la loro depressione dava luogo, precisamente per il fatto che erano lacune. Ma i miei domestici, corrompendosi a poco, me ne resero cosciente. Fu grazie ai difetti da loro invariabilmente acquisiti che io mi resi conto dei miei difetti naturali e invariabili, il loro carattere fornendomi una sorta di negativo del mio. Ci eravamo molto divertiti in passato, mia madre ed io, a spese di Madame Sazerat, la quale, parlando dei domestici, diceva «Quella razza, quella specie!» Ma devo riconoscere che la ragione per cui non aveva alcun senso pensare di sostituire Françoise con qualcun'altra era che quest'altra avrebbe fatto parte quanto lei, e inevitabilmente, della razza generale dei domestici e della specie particolare dei miei.